La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici all'ascolto, questa è La Rosa Purpurea, il settimanale di cinema di Radio 24. In questa puntata parleremo ancora una volta delle novità cinematografiche che arrivano nelle nostre sale. Non sono molte, come si conviene a questa altezza della stagione, ma c'è qualcosa sicuramente di interessante. Noi, come sempre, cerchiamo di riassumere un po' le suggestioni dei film che arrivano in sala nel nostro audio sommario. Non penso che Jazeera potrà più fare da babysitter a Zack e quindi sono venuta per portarle il suo ultimo assegno. Mi ha dato una botta sul braccio. E perché lo hai fatto? Lui mi ha chiamato portacammelli e anche negra del deserto. Perché non mi ha richiamata oggi? C'è una temporanea, non me l'ha detto. È molto carina. Insignificante. È un vero piacere incontrarla, signora Charles. Salve, insignificante? Quella ragazza può essere tutto ma non insignificante. Non saprei. Ho occhi solo per te. Brooklyn, ce l'abbiamo fatta! Oh! L'hip hop non sarà più lo stesso per colpa di quest'uomo qui, Notorious B.I.G. Yeah! E come avete sentito, abbiamo concluso con un film a suon di rap. Questo era proprio l'intro del trailer che un po' ci porta nel clima di questo film, che si intitola Notorious, ben lungi dall'essere un remake del film di Hitchcock, che è invece un film che racconta una storia anche abbastanza recente. Fine degli anni 90, un giovane rapper americano, appunto Notorious B.I.G., noto forse in Italia più come Notorious Big, perché lo leggevamo così, che diciamo così ha avuto la sua ascesa, ha portato il rap a un determinato livello, anche legato poi a scontri fra gang e situazioni similari, e poi ovviamente dove c'è stata l'ascesa c'è anche la caduta. Tutto questo racconta questo film di cui noi parliamo con Boris Sollazzo, che è in collegamento con noi. Ciao Boris. Ciao Franco. Allora, tu hai visto questo film tra l'altro al Festival di Berlino, dove era stato uno delle grosse produzioni americane di cui si era appunto parlato. Assolutamente, film forse, un film molto molto interessante, fatto da George Tillman Jr., che è il regista di Man of Honor. Fatto forse è esagerato, nel senso che comunque è un film che risente moltissimo dei due produttori. Uno è la madre di Notorious B.I.G., cioè la madre di Christopher Wallace, e l'altra è il produttore della loro Biggie Smalls, che poi sarebbe diventato Notorious B.I.G., cioè Puff Daddy. Facciamo una piccola considerazione storica. In quel periodo il rap si divideva in East Coast e West Coast. L'East Coast era il regno di Notorious B.I.G., mentre la West Coast era il regno di Tupac Shakur. Tupac Shakur muore nell'autunno del 96, Notorious B.I.G. muore nella primavera del 97, e dell'assassino di Tupac Shakur vengono accusati, tra gli altri, appunto Notorious B.I.G. e Puff Daddy. Come potete immaginare, il film, che non è affatto male, però risente dell'amore di mamma e di un produttore che insomma vuole portare acqua al suo mulino. Quindi se cercate una bella storia l'avete trovata, se cercate una biografia obiettiva forse non l'avete trovata. È un po' di parte, ecco. Allora, noi cominciamo ad ascoltare in questo passaggio del trailer quello che è l'ascesa appunto di Notorious B.I.G. Dalle strade di Brooklyn fino proprio al momento del culmine del successo. Quelli lì a ovest hanno Snoop, hanno Dre. La costa est aspetta che qualcuno riempia quel vuoto. Puff, forse nelle giuste mani posso diventare uno dei più grandi. Sei uno cattivo che vuole fare il buono? Ce l'hai la ragazza? O un buono che vuole essere cattivo? Sono uno che cerca di farti ridere. Certo, come no, bamboccione? Che uomo è uno che alla sua età si fa chiamare Puffy? Prima dei 21 anni ti avrò fatto già milionario. Abbiamo sentito quindi il culmine del successo, Notorious B.I.G. diventa un mito, la risposta della East Coast appunto a Tupac, che sta dall'altra parte degli Stati Uniti. Però ovviamente, come ci ha già anticipato Boris, le circostanze, tutto l'ambiente che appunto circonda questo giovane, forse privo anche degli strumenti necessari per gestire questo successo, comincia a ritorcerglisi contro, e dove c'è stata l'ascesa comincia anche la discesa. Sentiamo quest'altra parte del trailer. Stai sempre attento ai media, al pubblico e ai falsi amici che ti pugnalano. Ecco voi, Notorious B.I.G. Perdonami Fate, io voglio tornare a casa. Digli che dovrebbe far visita a sua figlia una volta ogni tanto. Big, mi hai venduto, bastardo! Fa attenzione figlio mio, nessuno è invincibile. No, no, no, no, no. Boris, ti chiedo un parere. Abbiamo visto tanti film sui rapper, tanti film sulla cultura nera americana antagonista. Io ricordo anche quella sulla cultura bianca americana antagonista, come 8 Mile, che forse rimane un po' il capolavoro di questo genere, o quantomeno il capostipite. Cosa c'è di differente? Io parto proprio da lontano, rispetto anche a Fa la cosa giusta di Spike Lee, insomma, c'è qualcosa di nuovo? C'è qualcosa di nuovo, sì, perché nel momento in cui si parla della East Coast, che è sempre stata quella la costa dimenticata del rap, si viene a scoprire tutto un altro mondo rispetto a quello che noi abbiamo saputo appunto da Eminem, quello che abbiamo saputo da Spike Lee, tutto ciò di cui si è parlato all'interno appunto del rap come struttura nata appunto nella costa ovest. Sappiamo appunto che Tupac Shakur era solo la punta dell'iceberg, era solo forse l'inizio di quella faida che poi nei 10 anni a venire, dal 97 fino adesso, si sarebbe riprodotta. Quindi forse questa è la cosa più importante. E poi il racconto di un figlio del crack, un figlio della droga, cioè il primo vero forse gangsta rap, anche senza volerlo, perché alla fine quello che si evince da Notorious B.I.G. è che lui è un bravo ragazzo costretto dal suo quartiere, come dice nel film, a non rimanere immacolato. Mia mamma mi ha fatto immacolato, ma questo quartiere non ti permette di rimanere tale. E quindi credo che sia questa la cosa più importante. E poi, come hai detto tu, l'ascesa e la discesa. Il film si apre con una dichiarazione di Tupac Shakur che dice appunto: goditi la Biggie Smalls, allora si chiamava Biggie Smalls, perché la cosa più bella è arrivare in cima. Quando arrivi in cima puoi solo cadere giù. Banalità forse, però Tupac Shakur lo sapeva, era già arrivato in cima, stava già cadendo giù, era già stato accusato di violenza sessuale, e quindi i due si incontrano, diventano amici per un po', poi diventano rivali, addirittura forse si sfideranno a duello anche se a distanza. Queste appunto le storie che si intrecciano in Notorious B.I.G. Il film si titola semplicemente Notorious, nei cinema italiani da questo fine settimana. Il nostro Boris Sollazzo in quel di Berlino ebbe anche l'occasione di intervistare i protagonisti. Noi sentiamo, abbiamo raccolto e condensato alcune dichiarazioni interessanti di Angela Bassett, una delle star di questo film, forse la vera star di questo film, che è nei panni della madre appunto del giovane rapper Violetta, e appunto quella di Jamal Woolard, che invece in persona proprio Notorious B.I.G. Sentiamo. It wasn't strange, it was I wouldn't say it was strange, but you thought about it, you know, I mean. Non è stato strano interpretare la madre di un rapper assassinato, direi piuttosto che è stata un'esperienza utile per riflettere. Voglio dire, è un film, per molte persone sarà solo entertainment, per altre sarà un modo per idealizzare il loro idolo e avere ancora un contatto con lui. Però è vero che mi sono trovata a pensare come una mamma che ha perso il suo figlio. Prima dell'inizio delle riprese ho avuto la possibilità di incontrare davvero la madre di Notorious. È stata lei a volermi incontrare per potermi dare la sua versione dei fatti e di suo figlio in particolare. Ci siamo conosciute di persona e abbiamo trascorso del tempo insieme. Quindi ho potuto conoscere anche aspetti di lei che non fossero solo quelli che emergevano in TV, dalle news o dai documentari. Oltre al dolore che ha causato la morte di suo figlio, ho potuto vedere anche la luce che ancora lei emana, e il suo calore e la sua generosità. I'm from Brooklyn, New York, same neighborhood. Yeah, definitely. So it's nothing to adapt to the swagger of my character. Posso dire di conoscere molto bene l'ambiente in cui si muoveva Notorious, perché anch'io ho vissuto da dentro quelle zone di New York, anch'io ho conosciuto quel tipo di lotta per la vita. Lo ricordo dai video perché di persona non l'ho mai incontrato, è stata la musica che l'ho fatto conoscere al mondo intero e io che sono di Brooklyn mi porto dentro proprio quella musica. Certo è difficile rappare come faceva lui, ma anche entrare nelle sue abitudini, dal tempo trascorso in studio al modo di camminare e persino di curvare le spalle. La rosa purpurea. Seconda parte della Rosa Purpurea, siamo sempre qui a raccontarvi i film che sono arrivati questo weekend nei nostri cinema. Abbiamo parlato di Notorious e noi invece adesso vogliamo raccontarvi un thriller, proprio un buon vecchio thriller, di quelli buoni, adesso ce lo dirà il nostro Boris Sollazzo, ma insomma vecchio nel senso di impianto classico sicuramente sì, tanto che spira una certa arietta da attrazione fatale. Lo chiediamo appunto a Boris Sollazzo, che nel frattempo dall'atrio di casa sua si è trasferito su nell'appartamento, quindi ha anche meno eco. Senza dubbio è un'attrazione fatale in nero, insomma, indovina chi non viene a cena, se vogliamo, perché appunto c'è Idris Elba, che è questo vicepresidente esecutivo di una grande azienda, un nero che ce l'ha fatta, un nero brillante con questa moglie bellissima, Beyoncé Knowles. Noi addirittura entriamo nel film con una bellissima canzone che accompagna la loro entrata nella nuova enorme casa, casa da manager, da super manager, con soffitti altissimi, loro fanno l'amore sul pavimento, cioè tutto perfetto, assolutamente perfetto. Non fosse che mette gli occhi sulla donna sbagliata, al suo primo giorno di lavoro nella società in cui è vicepresidente, c'è una bionda che gli distoglie lo sguardo dal giornale economico che legge con tanta avidità e interesse. Non l'avesse mai fatto, è l'unica cosa che fa, o quasi, lei è una stagista, forse è un film contro i precari, visto che appunto... Vatti a fidare delle stagiste! È una temporanea e insomma, in maniera molto subdola si inserisce nella sua vita e quasi gliela rovina sostanzialmente, insomma, ecco. È la struttura, come dicevamo, è un'attrazione fatale. La differenza appunto è che qua c'è una coppia nera e c'è una soave donna bianca, bionda, che è Ali Larter, eroina di Heroes. Ascoltiamo un passaggio del trailer di Obsessed nel quale appunto c'è questo primo contatto fra il manager e questa donna, sentiamo. Ha un appuntamento con noi? Sono temporanea. Temporanea? Ho negoziato con gli altri e mi sono accaparrata la sua scrivania. Spero che vada bene. Fa piacere una bella ragazza negli uffici, eh? Sì, signore. Insomma, è una festa un po' piccante. Non di solito. Non ci si diverte. Ecco, Boris, lui è un po' ritroso all'inizio, insomma, almeno sembra. Giura eterno amore alla moglie e sembra un po' rifuggire dall'invadenza di questa donna, no? Sì, lui è un personaggio di fantasia, cioè un uomo che si ritrova una moglie così fantastica a casa... che pensa bene di mettere gli occhi su un'altra donna e poi quando mette gli occhi su quest'altra donna che farebbe di tutto per lui, lui resiste e viene punito probabilmente per tanta abbondanza che lui rifiuta. Perché, c'è un disegno divino, diciamo, secondo te dentro questo? Secondo me sì, perché voglio dire, veramente, cioè, tanta grazia difficilmente capita a qualcuno, lui appunto rifiuta, arriva fino alla festa di Natale in cui beve, beve, beve, flirta, poi lei giustamente vuole andare al sodo e lui si fa desiderare, insomma, il rovesciamento della lotta dei sessi. E questo porterà tra l'altro a una reazione fuori programma da parte di lei e interviene a un certo punto una investigatrice. Sentiamo anche questo passaggio del trailer. Mi dispiace, stavo cercando Derek. C'è stato una specie di incidente. Ma sta bene. Penso che dovrebbe dirtelo lui. Mi chiamo Monica Reese, sono il detective incaricato. Ha tentato il suicidio nuda nel suo letto. Lei era nuda nella tua camera d'albergo. Ho bisogno della versione di suo marito. Ecco, Boris, è intervenuta la polizia, quindi noi ci fermiamo perché a questo punto altrimenti andiamo troppo nel vivo delle indagini. Ti chiedo un commento generale un po' su questo film. Solo un thriller di fine stagione o c'è qualcosa da salvare? È solo un thriller di fine stagione, il che non vuol dire che non ci sia niente da salvare. È che effettivamente non ci dà nulla che non avessimo già visto. Se no, forse, non forse... Una Beyoncé Knowles che passa dai ruoli musicali, quindi dai suoi ruoli di Dreamgirls o di Cadillac Records, a un ruolo da attrice tout court. E diciamo che se la cava, c'è un duello finale, non anticipiamo come, con chi e quando, in cui lei si fa decisamente valere. Ha questa bellezza che tra l'altro si allarga per la musica e si restringe per il cinema. Molto molto forte, ha una grande personalità, anzi se un grande difetto il film ha è che il carisma e la personalità di Beyoncé Knowles oscura gli altri due protagonisti, cioè Idris Elba che è poco più di un soprammobile, Ali Larter che sì, molto bella, però è molto piatta nel racconto cinematografico. Insomma, doveva farla lei la donna attratta, tutto sommato. Forse avrebbe avuto più senso. Un altro film, certo, avremmo visto un altro film. Boris, grazie per averci raccontato Notorious e Obsessed e a risentirci, insomma, qui alla Rosa Purpurea. Sarà sempre un piacere. E allora, prima di passare al prossimo film fra quelli in uscita nei nostri cinema, cominciamo a giocare insieme con il DVD Game. Come sempre vi faremo ascoltare tre frammenti di dialoghi di un film che dovrete riconoscere. Chi indovinerà di che film si tratta, il più veloce del sabato e della domenica, vincerà, riceverà a casa il DVD proprio del film di cui ci stiamo occupando. Allora cominciamo subito ad ascoltare la prima traccia del film misterioso di oggi. Lei propone qualcosa di nuovo? Gli inni di Natale piacciono a tutti, ma porterebbe allegria inserire un canto secolare. E perché far cantare proprio un canto secolare? Per gioco. O Frosty il pupazzo di neve. Molto bella. Potremmo vestire un ragazzo da pupazzo di neve e farlo danzare. Frosty il pupazzo di neve sposa in pieno il culto pagano della magia. Il pupazzo si anima grazie a un magico cappello. Se la musica fosse più cupa, la gente potrebbe rendersi conto che le immagini sono inquietanti e la canzone eretica. Le posso chiedere che cosa sta scrivendo con quella penna a biro? Niente, solo un'idea per un sermone. Ah, e qual è l'idea? L'intolleranza. La Rosa Purpurea, @radio24.it, l'indirizzo di posta elettronica per giocare e provare a vincere questo film. Più tardi, come sempre, vi faremo ascoltare altre due tracce. Andiamo avanti con un'altra proposta fra quelle in uscita in questo weekend. Un film che arriva dall'America, una commedia soprannaturale, potremmo definirla. Si intitola Ghost Town e racconta la storia di un uomo che durante un esame di laboratorio per 7 minuti sostanzialmente muore, cioè perde la vita. Poi ritorna assolutamente in sé, ma in 7 minuti qualcosa è cambiato, perché quest'uomo è diventato capace di comunicare, diciamo così, con gli spiriti. Insomma, il soprannaturale, dicevamo, la fa da padrone anche in questo caso, seppure in salsa di commedia. Nel cast Greg Kinnear, Tia Leoni e il protagonista Ricky Gervais, il custode antipatico di Una notte al museo, tanto per identificare di chi stiamo parlando. E allora sentiamo il racconto del film e poi le dichiarazioni di Ricky Gervais qui alla Rosa Purpurea. Data di nascita? Irrilevante. Stato civile? L'aspetto. Numero di bevande alcoliche assunte a settimana? Ma perché le serve saperlo? Lo vogliono sapere loro. Vogliono sapere un sacco di cose. Il fatto è che io non voglio che i miei dettagli intimi vengano sbandierati ai 420. Una volgare invasione della mia privacy. Vedrà quando la prendono là dietro. Il dottor Bertrand Pincus è un dentista di successo, ricco e affermato, ma anche misantropo e poco incline ai rapporti umani, che deve sottoporsi a un intervento chirurgico di colonscopia. Un intervento banale, ma che per lui avrà conseguenze inaspettate. È successo qualcosa di anomalo durante la mia operazione? Lei è morto. Sono morto? Un pochino. Sì. Per quanto? 7 minuti. Un po' meno. Sono morto per 7 minuti. Un po' meno. Gli esseri umani muoiono. Dopo questo faccia a faccia con la morte, il dottor Pincus si accorge di avere capacità sovrannaturali, riesce a vedere i fantasmi. Presto la voce si diffonde tra la comunità degli spettri di New York, che in massa si rivolgono a lui per chiedergli di metterli in contatto con i loro cari ancora vivi. Ci può vedere? Chi? Fantasmi. Sono dappertutto e hanno un sacco di conti in sospeso. Se rivuoi la tua vita tranquilla, facciamo un patto. È un brutto momento. Tra tutti i fantasmi, il dentista medium fa amicizia, per così dire, con uno in particolare, Frank Early, che gli promette di liberarlo dagli altri spettri se lo aiuta a salvare la moglie, o meglio la vedova Gwen, la signora Duchovny Tia Leoni, da un matrimonio secondo lui sbagliato. Pincus accetta e si ritrova nel bel mezzo di un triangolo amoroso. Tu fai una cosa per me e non rivedrai mai più nessuno di noi. E mia moglie si sposa con un tipo molto molto cattivo. Qualcuno deve impedirlo. La maniera più semplice è presentarle un'alternativa. Oh, santo cielo, vuoi essere tu? Versione cinica del Ghost strappalacrime con Patrick Swayze e Demi Moore, Ghost Town tutto sommato ha una trama piuttosto prevedibile, ma si avvale di dialoghi brillanti e originali, frutto del lavoro di John Kemps e del regista David Koepps, già autore di blockbuster come Men in Black, Jurassic Park e l'ultimo Indiana Jones. Nel ruolo del medium suo malgrado c'è Ricky Gervais, che così presenta il suo personaggio. Nella sua vita ha successo, è ricco, affermato, un dentista di grido, ma misantropo e piuttosto rude. È quando entra in contatto con questa donna che però si dimostra una vera catastrofe e che in materia non ha davvero nessuna esperienza, un disastro. La prima volta che prova a stabilire un dialogo con lei è semplicemente patetico. Insomma, un dentista che riesce a far ridere, ma per Gervais Ghost Town non ha una comicità fatta solo di gag. Non potevamo fare soltanto una serie di gag, la commedia si sarebbe ridotta a una farsa, questo, oserei dire, è invece un film vecchio stile, qualcosa che avrebbe potuto fare James Stewart, anche se ovviamente l'avrebbe fatto molto meglio di me. Come la Whoopi Goldberg di Ghost, anche il dottor Pincus all'inizio ha difficoltà ad accettare l'esistenza dei fantasmi, ma poi si rassegna. Ricky Gervais come si pone nei confronti degli spettri? Ci crede? Purtroppo no, sono piuttosto scettico, non credo ai fantasmi o agli elfi, forse ci sono gli alieni, ma sono molto molto lontani, però credo a Babbo Natale perché tutti gli anni mi porta i regali. La Rosa Purpurea. La terza parte della Rosa Purpurea si apre con una proposta che arriva dagli Stati Uniti. un film che racconta i turbamenti di una giovane, di una ragazzina tredicenne di fronte alla sua crescita fisica e sessuale nell'America appunto del dopo 11 settembre. Il film si intitola Niente velo per Jazeera. La questione, Jazeera, è che ci sono modi giusti e modi sbagliati di comportarsi e tu potrai capirlo solo vivendo con tuo padre. Non è facile passare dall'infanzia all'adolescenza, scoprire e gestire la propria sessualità. Non è facile se sei una ragazzina di 13 anni con un corpo in piena tempesta ormonale che già invia al mondo esterno ampi segnali di sensualità. Non è facile se sei di origini arabe nell'America che sta per invadere l'Iraq di Saddam Hussein. Tutto questo è Jazeera, la giovane protagonista del film di Alan Ball. Già oggetto di attenzioni un po' troppo morbose da parte del convivente della madre, la ragazza viene mandata a stare nella casa paterna. L'atterraggio a Houston, però, non è dei più morbidi. Signore e signori, benvenuti all'aeroporto intercontinentale di Houston. Sono le 16:38 ora locale. Grazie per aver volato con noi. Ciao, papà. Il tuo volo ha tardato di 1 ora e 22 minuti. Mi dispiace. Perché ti scusi? Lo portavi tu? Andiamo, rimarremo bloccati nel traffico. Abituata alla gestione libertina e occidentale della madre, la ragazza si trova di fronte alle ruvide arretratezze del padre, come per esempio quando per la prima volta si pone il problema di acquistare degli assorbenti. Allora, com'è la tua situazione? Leggera, media o abbondante? Posso sceglierli io? No, se stai pensando di usare assorbenti interni. Quelli li usano le donne sposate. Serve aiuto? No, grazie, siamo a posto. Sono per te? Bene. Questi sono quelli che usa mia figlia. Cosa c'è che non va in questi? Beh, sono più spessi e meno comodi. Sì, certo, ma quelli costano il doppio del prezzo. Probabilmente per la comodità di cui le parlavo prima. Grazie. Come dicevamo, siamo alla vigilia dell'invasione dell'Iraq, dopo l'11 settembre, e la provincia americana, quella fatta di un'infinita teoria di villette a schiera, risente delle tensioni del momento. Rifat Maroun è un americano di origini libanesi, Travis Vuoso è un riservista in attesa di partire per il Medio Oriente. Entrambi hanno la bandiera americana piantata in giardino e ciò nonostante diffidano l'uno dell'altro. Rifat però accetta che Jazeera vada a fare da babysitter a Zach, il figlio dei Vuoso. L'ingresso in quella casa turberà ulteriormente gli equilibri della ragazza. Travis si invaghisce di lei e stenta a tenere a bada un'attrazione così pericolosa. Il resto lo fa Jazeera, stuzzicando l'uomo continuamente, con o senza volontà. Mi sento così felice. Perché io ti piaccio? Io lo so. È per il mio seno. Ah, no. Forse. Ma non solo. Quando crescerò, sarò nelle tue riviste. No, non ci sarai. Sei una sgualdrina. Eh? Non credo. No, tu non lo sei. Non sarai in quelle riviste. Insomma, nel giro di poche settimane Jazeera è al centro della vita di tutti gli uomini di tutte le età che le girano intorno. Il padre, Travis, Zach, il compagno di scuola Thomas che le promette amore ma in fondo cerca sesso. Sarà Melina, una vicina di casa incinta, la più lucida di tutti, a rappresentare il necessario secchio di acqua gelida nella torrida estate della sua adolescenza. Un film interessante, quello firmato da Alan Ball e tratto dal romanzo omonimo di Alicia Eran. L'esordio alla regia per l'uomo che ha creato la serie Six Feet Under e ha scritto la sceneggiatura da Oscar di American Beauty, del quale riprende la tematica principale, quella dell'amore proibito fra un uomo maturo e una lolita. Qui però c'è in più lo sfondo della guerra del Golfo, ormai sufficientemente lontana nel tempo da permetterne una storicizzazione al cinema. Un'America pre-Obama, anzi totalmente pro-Bush in quel momento, che sembra importare nella sua vita civile gli orrori del pensare bellico, la violenza, la sopraffazione delle donne, il razzismo. Anche la società civile americana combatte la sua guerra. I personaggi sono visti sempre con un filo di ironia e una certa relatività. Il padre è un duro, rigoroso, ma in fondo non cattivo. Travis è attratto attratto, affascinato, ma non un mostro. Insomma, sono le debolezze umane il tratto comune della fauna che popola il film. Il ritmo è scandito dalle fughe e dai ritorni di Jazeera, dalle sue scoperte amorose e dai suoi pensieri proibiti. Si sente il caldo dell'estate texana e di un'umanità in fermento, tesa come la corda di un violino. Nel cast non mancano nomi importanti come quelli di Aaron Eckhart o Toni Collette, ma colpisce la prova di Summer Bishil, la Jazeera del titolo, che di anni in realtà ne ha 21, e che in questi giorni è possibile vedere al cinema anche in Crossing Over, accanto a Sean Penn, Harrison Ford e Ashley Judd. Niente velo per Jazeera, quindi, nei cinema italiani in questo fine settimana. Noi apriamo la seconda finestra sulla DVD Game di oggi. Che diceva di Donald Miller? Che bisogna essere cauti. Nella recita non si deve nascondere Donald Miller, ma neanche esibirlo. Per il colore della sua pelle? Andiamo, padre. Dovrebbe essere trattato come tutti gli altri. Beh, lei stesso ha fatto oggetto il ragazzo di particolari attenzioni. Lo ha incontrato da solo, in canonica, una settimana fa. Di che stiamo parlando? Il ragazzo era strano quando ha fatto il ritorno in classe. Davvero? Al ritorno dalla canonica era un po' strano, sì. Insomma, è stata una sua impressione? Sì. E dato che veniva dalla canonica, lo chiedete a me. Esatto. La Rosa Purpurea, @radio24.it, un grande film di attori. Avremo un'altra possibilità per indovinarlo e provare a vincere il DVD di questo film nell'ultima parte del nostro programma. E siamo in collegamento qui alla Rosa Purpurea con Vittorio Boarini, direttore della Fondazione Fellini, che saluto. Buongiorno. Buongiorno. Allora, parliamo di una cosa particolare, perché la Fondazione Fellini fa tante cose, vede tante cose, studia tante cose legate al nome e all'opera del maestro, ma forse questa è una delle più singolari che si sono viste in giro. Ha detto proprio bene. Esatto, una via di Torre Canavese, piccolo comune della provincia torinese, la Viassa viene chiamata, cioè Viassa, sì. una via centrale, bella, suggestiva, che da qualche giorno è anche piena di personaggi felliniani. Allora, Vittorio Boarini, lei è uno di quelli che li hanno visti, insomma, cosa ci fanno quei personaggi lì, chi sono e come sono fatti? Questi personaggi riempono una strada, la strada è lunga 150 metri, però è vero che non ci sono solo personaggi, ci sono anche cose, per esempio il Rex, c'è una sagoma del Rex lunga 20 metri, che di sera, con tutte le luci accese, è sfolgorante come la si vede nel film di Fellini a Marcord. E poi c'è la Fontana di Trevi, con vicino alla Fontana di Trevi la sagoma Grandezza Naturale dell'Anita Ekberg e di Marcello Mastroianni. E poi c'è la Tabaccaia di Amarcord, e poi c'è la Volpina, e poi ci sono i personaggi della strada, Zampano e Gelsomina, e poi lo sceicco bianco Alberto Sordi sull'Altalena, cioè è la riproduzione di un mondo felliniano che avviene lungo una strada. Ecco, Guarini, però ci viene da chiedere in maniera naturale, ma questa strada non doveva essere a Rimini? Ecco, è quello che penso anche io, però bisogna anche dire che esiste, come dire, una casualità che alla fine non è mai casuale, e cioè questo fatto che in questa cittadina a 600 abitanti, che è diventata famosa per aver fatto alcune manifestazioni di rilievo internazionale, sia diventata, ecco, la sede di una sorta di Amarcord felliniano che non ha l'uguale al mondo e che è un museo all'aperto e che, secondo le intenzioni di coloro che hanno promosso questa iniziativa, va dato atto, ecco, a Marco Datrino, che è un antiquario del luogo, e va dato atto a Enrico Todi, che è un antiquario di via Margutta, amico di Fellini da sempre, che hanno avuto questa idea, e il comune di Torre Canavese, che ha ritenuto di aiutare e sostenere questa iniziativa, l'idea che loro hanno è di tenerla per sempre, magari anche prestandola, e io penso che Rimini dovrebbe chiederla e allestire questa strada in una delle strade di Rimini, per esempio sul Lungomare, vicino al Grand Hotel, ecco, qualcosa del genere. Questo museo all'aperto è straordinario perché Antonello Geleng, il cui padre era stato uno dei collaboratori di Fellini che più a lungo avevano lavorato con il maestro, e lui aveva aiutato il padre in questa attività e adesso ha fatto questa impresa. E l'ha fatta come? Scegliendo come materiale il legno con cui costruiscono le navi, quindi resistente ad ogni intemperie. Per cui questo può stare sotto l'acqua e sotto la neve senza subire danni. Beh, vederlo innevato l'inverno prossimo sarà davvero suggestivo. Ma è bellissimo, guardi, io sto pensando, mi è venuta questa idea, di organizzare un pullman per portare i riminesi a vederlo. Perché descriverlo non si riesce a dare l'idea dell'effetto suggestivo che fa questa strada. Vederla di notte, illuminata, con il Rex che ha tutte le luci, è una cosa che bisogna vedere. Buonini, ricordiamo tra l'altro anche che insieme a questa installazione definitiva per un po' di tempo ci sarà anche una mostra sempre lì a Torre Canavese, se non sbaglio. A Torre Canavese, no? Ecco, vicino a questa strada c'è una specie di castello che adesso è di proprietà dell'antiquario Marco Datrino. In questo castello, che normalmente ospita una mostra di antiquariato, è stata allestita una mostra dei disegni di Fellini della collezione Gehlen dell'Antonello, che ha progettato questa strada. E Antonello Gehlen possiede molti disegni che ha ereditato dal padre, che essendo il padre un amico molto intimo di Fellini, Fellini gli regalava o gli lasciava dei disegni. Ecco. E quindi è stata allestita questa mostra. Straordinariamente interessante, perché fra questi disegni ve ne sono due, che sono due pagine che Fellini aveva staccato dal libro dei sogni e regalato al suo amico Rinaldo. Uno di questi disegni poi è particolarmente interessante perché è lo studio di Barnard, cioè dello psicanalista junghiano dal quale Fellini andava. Ed era in questo sogno Fellini si vede nello studio di Barnard. È ritratto Barnard, è ritratto di spalle Fellini. E nello studio vi sono sei caminetti accesi, cioè nello studio dello psicanalista Fellini si sentiva come a casa, col caminetto, addirittura ce ne sono sei. Lì, fra l'altro, vengono anche proiettati delle cose che non si vedono mai, che sono gli spot pubblicitari che Fellini ha fatto. Fellini ha fatto cinque spot pubblicitari, uno per la Campari, che è stato il primo, uno per la Barilla e ben tre per la Banca di Roma. E che vengono lì proiettati. Guarini, grazie mille e grazie, buon lavoro per l'attività della Fondazione. La Rosa Purpurea. Cominciamo la quarta e conclusiva parte della Rosa Purpurea, curiosando come sempre oltreoceano in quel che succede o sta per succedere nelle sale cinematografiche americane. Con la nostra rubrica Trailer USA, in questa puntata parliamo d'amore e vi presentiamo una commedia romantica che negli Stati Uniti in poche settimane ha conquistato i primi posti della top 10. The Proposal, questo è il titolo americano, che qui in Italia, quando uscirà il prossimo 11 settembre, diventerà Ricatto d'amore. Salutiamo la nostra Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. È un film della regista Ann Fletcher che ci regala una commediola brillante, potenzialmente divertente, con una coppiata ancora inedita, Sandra Bullock e Ryan Reynolds. È una storia che ricalca un film uscito negli anni 90, Green Card, matrimonio di convenienza, lo ricorderete forse, con Gerard Depardieu e Andy McDowell, che raccontava insomma la storia di una donna che vuole avere, e questo è di tremenda attualità, il permesso di soggiorno per restare negli Stati Uniti. Allora andiamo a vedere se ci sono differenze. 20 anni dopo, i dettagli a te, Micaela. Sì, il film parla proprio del famoso permesso di residenza negli Stati Uniti. Sandra Bullock, che interpreta Margaret, una potente e cattivissima dirigente editoriale, che un giorno rischia rimpatrio in Canada perché il suo visto di lavoro negli Stati Uniti è scaduto e non c'è nessuna possibilità di rinnovo. Pur di non lasciare il paese, Margaret si dice disposta a tutto e di colpo si inventa di dover sposare il suo assistente Andrew, che la odia perché da anni viene maltrattato sul lavoro proprio da Margaret. Qui la sentiamo mentre gli chiede di rinunciare al suo weekend perché ha bisogno di lui per lavoro. I need you around this weekend. This weekend? You have a problem with that? No, I just my grandmother's 90th birthday, so I was gonna go home and it's fine, I'll cancel it. Is that your family? Yes. They tell you to quit? Every single day. Davanti a questo ricatto d'amore, Andrew non si tira comunque indietro e così i due volano in Alaska, dove risiede la famiglia di lui e dove dovranno sposarsi. In pubblico recitano la coppia innamorata e in privato la coppia che ovviamente si odia. In questo passo stanno dormendo nella stessa stanza ma in letti separati. Quando bussa la mamma di lui per la colazione, saltano tutti e due nel letto matrimoniale facendo i futuri felici sposini. Breakfast for the happy couple. Just a second. Spoon me. Oh my God, what is that? I'm sorry. What is it? It's the morning. Margaret ed Andrew, quindi, con l'ufficio immigrazione che li osserva e un matrimonio a breve, si giureranno di portare avanti la sceneggiata qualsiasi cosa succeda, ma se ci sarà happy end o meno lo scoprirete solo in sala. Del resto sono molti i film di questi ultimi anni che raccontano matrimoni che partono arrangiati, diciamo così, e poi invece si rivelano essere qualcosa di più profondo. Da noi, lo ripetiamo, il film uscirà l'11 settembre. Un saluto a Michaela Bellisario. Ciao Franco, alla prossima settimana. Un saluto come sempre ai nostri ascoltatori. E allora noi andiamo avanti con la terza e conclusiva traccia misteriosa del DVD Game di oggi. È che a lei lui non piace. Lei non tollera che lui usi la penna biro per scrivere. Lei non tollera che lui ami Frosty il pupazzo di neve e quindi cerca di convincersi che lui abbia fatto una cosa orribile, davvero orribile. Ecco, guardi. Ha fulminato la lampadina. Abbiamo detto un film d'attori, un film tratto tra l'altro da una grande pièce teatrale che ha sullo schermo due attori giganteschi del firmamento hollywoodiano. La Rosa Purpurea @radio24.it per dire la vostra e provare a vincere appunto il DVD di questo film. Vi ricordo sempre che l'indirizzo è aperto anche per ogni vostra proposta, che potrete scriverci qualsiasi cosa vogliate e che il 27 luglio cominceremo con la nostra nuova trasmissione in diretta tutte le sere dalle 18 alle 18.30 qui su Radio 24, La vita in un film, dove potrete partecipare appunto intervenendo in diretta e raccontandoci quali sono i film in cui vi siete maggiormente identificati. Avremo modo comunque per parlarne. Noi a questo punto risolviamo però il game della scorsa settimana. Vi avevamo fatto ascoltare queste tracce. David, come ti è venuto in mente? Cosa? $600,000, è una fortuna. 200 al momento della firma. Dei soldi non ti devi preoccupare. La maggior parte degli americani lo vorrebbe in galera e tu lo stai rendendo un uomo ricco. E in più, rialzando il prezzo, ti sei fatto nemici in network. È solo invidia. Già ci sono polemiche sul giornalismo a pagamento. E se hai network contro, sarà impossibile vendere il programma. Niente distribuzione, niente sponsor. Niente sponsor, niente pubblicità. Niente pubblicità, niente ricavi. E domandona finale, perché farlo? Si trattava di Frost Nixon. Lo avevo definito proprio in conduzione la scorsa settimana uno dei più bei film, a mio avviso, della stagione che si sta concludendo. Frost Nixon, la storia di un'intervista che è diretta e giocata e recitata come un vero e proprio match di pugilato. Colpi da una parte e dall'altra. Una storia vera e anche, ancora una volta, la vena più impegnata del cinema americano. E noi ne parliamo con Claudio Pofi, che è qui con noi come sempre per raccontarci tutti i contenuti e tutte le particolarità dei DVD. Claudio, questo Frost Nixon è all'altezza del film? Sì, l'opera di Ron Howard, di questo notevole regista premio Oscar, porta su grande schermo la storia di questo scrittore, Peter Morgan, che racconta dell'incontro storico fra Richard Nixon nel momento della sua caduta, della sua disgrazia, e David Frost, questa personalità televisiva in cerca di notorietà. Arriva l'opera di Howard per ora solo in DVD, quindi a definizione standard, comunque di eccellente qualità, non abbiamo nulla da eccepire per quanto riguarda la parte video. L'audio è disponibile in numerose tracce, segnalo sicuramente l'italiana in Dolby Digital Multicanale, ma è tutta da ascoltare anche l'originale inglese. Sono disponibili degli extra molto interessanti, perché ci sono numerose scene eliminate, un making of, le interviste originali dell'epoca, la biblioteca di Nixon e il commento del regista su tutto il film. La mia città, non posso rinnegarla. La mia città urla. È mia madre. È la mia amante. E io sono il suo spirito. C'è un film che invece questa stagione ha, diciamo così, avuto esiti contrastati e contrastanti anche fra gli stessi fans che avrebbero dovuto accoglierne a braccia aperte l'uscita. Stiamo parlando di The Spirit, tratto da un graphic novel. È stato un po' l'anno dei graphic novel, pensate anche a Watchmen, insomma un genere che sta diventando un fornitore ufficiale e abituale del grande schermo. The Spirit adesso arriva in DVD con quali esiti, Claudio? Sì, gli esiti dal punto di vista tecnico sono eccellenti. L'opera è disponibile non solo in DVD ma anche in Blu-ray alta definizione. E allora questa storia di questo personaggio, The Spirit, un eroe sicuramente insolito che non ha ufficialmente superpoteri, ma in realtà nulla sembra poterlo uccidere, combatte contro questa nemesi che si chiama Octopus. Ci sarebbero tutte le prerogative per un'opera interessante, in realtà qualcosa forse non funziona al meglio. L'opera di Frank Miller è sicuramente ricordato per aver collaborato a dei gioielli come Sin City e piuttosto che 300, in DVD, così come in Blu-ray, non abbiamo nulla da segnalare per quanto riguarda problematiche varie, sia dal punto di vista video che audio. Sono presenti degli extra molto interessanti, perché abbiamo il commento del regista assieme alla produttrice Deborah Del Prete e numerosi approfondimenti, perché naturalmente l'opera vive letteralmente su effetti in computer grafica e quindi è possibile approfondire le difficoltà nella realizzazione dell'opera, oltre a uno storyboard con un finale alternativo. Ed è una puntata a grandi titoli quella di oggi per quanto riguarda le uscite in DVD, perché arriva nelle videoteche anche il curioso caso di Benjamin Button, un film che ha fatto anche, come dire, la sua figura nella notte degli Oscar, ne se ne è parlato tanto. Cosa succederebbe se un uomo nascesse vecchio e diventasse giovane? Sentiamo la clip. Io non ho mai smesso di amarti. Oh, ma Benjamin, ormai sono vecchia io. Certe cose non si dimenticano mai. Il titolo è di Warner, arriva disponibile sia in DVD che in Blu-ray alta definizione. Tratto da un racconto di Francis Scott Fitzgerald, il film ci racconta la storia di Benjamin Button, quest'uomo che, contrariamente alla norma, nasce anziano, ringiovanisce anno dopo anno e la sua vita si intreccerà con quella di una donna, e dandogli così l'opportunità, diciamo, di vivere una grande storia d'amore. La qualità dal punto di vista tecnico, video e audio, è assolutamente eccellente, naturalmente superiore quella per quanto riguarda il Blu-ray, che offre ben due dischi: sul primo il film con il commento del regista David Fincher e sul secondo disco 14 approfondimenti sulla lavorazione, peraltro molto compressa, per quanto riguarda il make-up del film. Segnalo per entrambe le edizioni, oltre alla possibilità di ottenere la copia digitale, anche un game che permette di vincere uno dei 10 esclusivi libri fotografici che permettono così, insomma, attraverso 176 pagine, di visionare foto da collezione e capire le complessità della lavorazione dell'opera. Grazie Claudio Poffi, appuntamento fra 7 giorni, come sempre, qui nello spazio DVD della Rosa Purpurea. A presto, un saluto. E siamo giunti così alla conclusione di questa puntata del nostro programma. Appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24. Avremo ospiti davvero straordinari, su tutti Fanny Ardant, che ci ha rilasciato un'intervista esclusiva, ma parleremo anche, come sempre, di tutte le novità al cinema. Conto quindi di ritrovarvi tutti qui il sabato alle 18 e la domenica alle 9 del mattino. Un saluto da Franco D'Assisi.